ho notato che tu sei molto sensibilizzato dai problemi attuali delle nuove generazioni, la contestazione, cioè sia nella domanda che tu mi hai fatto su Milano, sia nella esposizione che tu hai fatto adesso, no? Stabilisci questo ricorso, no? Il che vuol dire che questo movimento della contestazione ha effettivamente investito un po' tutto il tessuto sociale italiano, no? Poi hai a un certo momento dichiarato che la settimana rossa era l'effetto di una situazione anteriore che lì trovava sbocco, situazione anteriore che poneva, come dire, la necessità di un salto di esigenze sociali, diciamo anche di nuovi bisogni, no? Che venivano fuori da un periodo, diciamo, Di favorevole, sviluppo di economico, sviluppo non economico c'è dubbio, estremamente favorevole, come era stato stati i quello primi anni del giorgiano. secolo. Allora, in questi giorni pensavo che al limite, tu sei il padre della contestazione di oggi. Sì, senza voler essere considerato il padre della contestazione di Questione di oggi. oggi, perché come per la vecchia sinistra quando va al potere nel 78, come per i gruppi sindacalisti rivoluzionari del periodo giolittiano, così come per il movimento di contestazione che si forma all'interno del centro-sinistra, si configura, è un po' deterministico, però continua a configurarsi questa dinamica che nella misura in cui lo Stato e le sue istituzioni si democratizzano, cioè la sua area si amplia, e allora in questo senso tu sei il movimento di base e diciamo in termini molto imprecisi, più sovversivo, no? Il movimento più sovversivo ha spazio per venire avanti. Cioè, come dopo il 78, l'avvento della sinistra, 76. cominciano i grandi movimenti contadini, no? La BOI, eccetera. Nel periodo giolittiano c'è uno sviluppo di lotte fortissime proprio perché c'è un'apertura. Così il centro-sinistra dà la possibilità ai gruppi estremi di venire avanti. Questo è uno dei motivi per cui pensavi che in un certo senso eri un po' il padre della contestazione. Voglio dire, l'altro è la polemica col PC, no? Che è il fondo poi, il fondo della questione, insomma, no? Cioè che è il punto più interessante della polemica ideologica dei piccoli gruppi. Piccoli gruppi per modo di dire, insomma, perché si stanno così allargando, ecco. La cosa è abbastanza curiosa, perché mentre prima eri protagonista dal basso di una situazione, diciamo, eversiva, nel senso di andare avanti anche, io pensavo, e vedo che tu non sei alieno dal pensare una cosa di questo genere, che l'operazione che insieme a tutti gli altri compagni avete fatto di allargamento dell'area democratica è all'origine della possibilità di chiedere maggiormente da parte di alcuni ceti sociali guidati da nuove forze rivoluzionarie, ecco così, genericamente Ma questo è vero sia nel senso che tu chiamavi qualche istante fa deterministico, cioè sempre ad una situazione di sviluppo economico, s'associa un movimento operaio che vuole diventare partecipe dei benefici di questo sviluppo. Ma direi che c'è anche un'altra considerazione da fare, e cioè sempre ad un movimento di consolidamento, di consolidazione della vita democratica delle masse, coincide una fase di nuove lotte che sono portate avanti appunto dalla parte più giovane del paese e che sono intese a trarre da questo consolidamento della vita democratica o da questo miglioramento della situazione economica, tutti quegli fattori di progresso civile, di progresso sociale, di trasformazione delle istituzioni, eccetera, che sono in esse inerenti. In fondo un po' il nuovo che nasce dal vecchio. Il nuovo che è già in germe nel vecchio, ci vuole un fatto di rottura perché il germe esploda e questo in una catena che secondo me non si arresta mai. Perché io direi che ciò che caratterizza un moderato, un conservatore, da un rivoluzionario o da comunque un uomo legato a lotte di carattere progressivo, è questo, è quello di credere che a un certo momento la storia si ferma. Cosa vogliono ancora? Vogliono sempre cose nuove, perché lo sviluppo della società comporta sempre l'esigenza di conquiste nuove, di fatti nuovi.